Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Mario Preve, Il canto del gallo, di Lara Vecchio. Sei generazioni di riso, un lungo viaggio dall'Argentina fino al cuore della Lomellina, la culla del prezioso cereale, comincia così la storia d'impresa della famiglia Preve. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Voce d'Impresa, con noi il presidente di Riso Gallo, Mario Preve. Innanzitutto noi avevamo un po' di problemi nel sapere esattamente quando siamo nati, perché noi avevamo gli uffici a Genova e nella seconda guerra c'era stato bombardato l'ufficio e quindi avevamo perso l'archivio. Per fortuna un giorno è venuta una studentessa che doveva fare la tesi di laurea. Dopo aver finito la tesi ci ha detto se poteva fare qualche cosa per noi per ringraziarci, e allora gli ho chiesto se poteva effettivamente andare a vedere se si poteva avere qualche documento per rintracciare la nostra anzianità, diciamo così. Lei è andata a Genova e finalmente è riuscita a rintracciare un documento che ci faceva tra l'altro 20 anni più vecchi di quello che eravamo, e quindi così risaliamo al 1856 con certezza. Quindi 6 generazioni, io sono la quinta, i miei figli 2 su 4 lavorano in azienda, e questa è più o meno la nostra storia. Io sono nato in Argentina, tra l'altro, mio figlio maggiore anche. Noi verso la fine dell'Ottocento siamo andati in Argentina perché a Genova c'era una famiglia a Piaggio, c'era uno di questi signori che era andato in Argentina a fare del riso e poi in un certo momento aveva deciso che voleva rientrare, quindi noi come genovesi ci hanno chiesto se volevamo occuparci di questa attività. Quindi nella fine dell'Ottocento siamo andati là e da lì abbiamo rincominciato di nuovo un'attività anche in Sud America, in Argentina, in Uruguay ed in Brasile. Una vita legata al riso, un tema ricorrente anche nell'iconografia e nella filmografia. Beh, certamente per noi Riso Amaro, diciamo, è stato certamente un punto basilare, ecco, nella storia del cinema italiano, e quindi è molto legata al nostro prodotto. Ne stanno arrivando due. Allora, che si fa? Se succede qualcosa, mischiati alle mondine. Non badare a me, ma te avrò. La roba tienila tu sempre addosso. Milioni, lo sai. Quelle immagini lì vengono ancora fuori adesso, si ricordano, e quindi è certamente stata una pietra miliare. Ecco. 4 figli maschi pronti a raccogliere l'eredità dell'impresa di famiglia, non prima però di aver compiuto un percorso di formazione estremamente severo, un'educazione ferma per lasciare l'azienda in mani solide e responsabili. Ma effettivamente quello di non essere figli di papà è una questione fondamentale, per quello abbiamo fatto una specie diciamo, chiamiamolo regolamento interno, ecco, così come i paesi hanno una costituzione, le aziende hanno uno statuto, le famiglie devono avere un patto di famiglia, ecco, che sono delle regole del gioco in sostanza, e quindi ci siamo messi con l'aiuto di un consulente intorno a un tavolo tutti quanti, quindi con mogli comprese, e abbiamo stabilito certe regole. Tutti si devono laureare, cosa che poi hanno fatto. Tutti devono imparare minimo 3 lingue straniere, e poi una volta fatto questo devono fare in azienda quello che si chiamano le 7 settimane, che sono una settimana per ogni settore dell'azienda. Questo perché sappiano come funziona l'azienda anche coloro che non ci lavorano al momento, almeno. Dopo aver fatto questo, loro e non io si devono cercare un lavoro. Loro devono guardare sui giornali, su internet, devono andare a fare i colloqui, devono sentirsi dire non abbiamo bisogno di te, che è un'ottima scuola, e poi devono farsi trovarsi questo lavoro appunto e rimanerci almeno 3 anni. Questo comunque non vuol dire che poi entrano automaticamente in azienda, entreranno se ci saranno delle condizioni e delle necessità sia come azienda che loro come persone. Rapporti umani sempre in primo piano. Riso Gallo dà lavoro a un intero paese, Robbio Lomellina, e Mario Preve mantiene un rapporto diretto con ciascuno dei suoi dipendenti. Ma io dico sempre ai nostri collaboratori che la nostra, essendo un'azienda a carattere familiare, deve chiedere ai suoi collaboratori di dare di più di quello che si dà normalmente in un'azienda dove diciamo l'azionista non è seduto a una scrivania, ecco. Per questo facciamo diverse attività che sono tutte rivolte a far capire alla gente che sì, gli chiediamo molto, però da noi hanno delle cose che in altre aziende non hanno. Le posso citare qualche esempio. C'è ogni tanto si fa l'open day per far vedere l'azienda ai parenti dei nostri collaboratori. Noi facciamo ogni 2 anni una cena per tutti i dipendenti dove consegniamo le medaglie di anzianità. E abbiamo tra l'altro della gente che ha aspettato andare in pensione un anno dopo per avere una certa medaglia, ecco. Quindi questo vuol dire che è una cosa che è apprezzata. Poi abbiamo delle altre attività, tipo una specie di club che si chiama Parnassos, col quale andiamo a vedere musei, posti particolari, assieme ad amici. Una delle cose alle quali io tengo di più è un'attività che chiamiamo Parliamo d'altro. Parliamo d'altro, si scelgono questi capi di settori, in tutto saranno 25 persone, si radunano in un posto, diciamo, in mezzo al verde possibilmente, si arriva un giovedì sera e poi nel venerdì e nel sabato sino all'ora di pranzo ci sono dei personaggi che vengono a parlare di qualsiasi argomento, purché non sia lavoro. Quindi pittura, musica, politica, religione. Al venerdì sera poi abbiamo Indovina chi viene a cena. Ecco, di solito è un personaggio un po' particolare. Tra quelli posso nominare per esempio il presidente Andreotti, che è venuto a cena con noi. Ecco, sono occasioni per scambiare idee, per dimostrare ai nostri collaboratori, dirgli in un modo concreto grazie per quello che fai per noi, ecco. Un nome, un animale riconoscibile, inscindibile, il gallo, che ha fatto la fortuna di un marchio. Ma come nasce il galletto? Guardi, questo simbolo è nato nel periodo degli anni 40 in Argentina. Mio padre era rimasto bloccato là quando è cominciata la guerra, e lui aveva un amico che vendeva allora dei liquori dove c'era nell'etichetta scritto molto grosso il nome, e lui diceva: vedi, la gente ricompra il mio prodotto perché sa come si chiama. Tu invece vendi il riso, allora si vendeva in sacchi da 50 kg e quindi dal droghiere, diciamo, e quindi veniva la massaia, gli si dava un sacchetto di carta, gli si riempiva di riso e gli si dava il riso. E quindi diceva: nessuno sa come si chiama, nessuno sa che tipo di riso è, nessuno sa niente di te. E allora mio padre ha incominciato a pensare a questo, e allora, solo che nel riso ci sono molte varietà, per ogni varietà c'è tante qualità, e poi là in Argentina all'epoca c'era molto analfabetismo. Allora ha incominciato a fare dei sacchetti di carta dove metteva dei disegni di animali per ogni tipo di riso, e quindi c'era la giraffa, l'elefante, la pantera, il tigre, l'aquila, e la qualità migliore si metteva nel gallo, come si sa. sarebbe potuto mettere in un altro animale. E la gente andava dal droghiere e faceva e segnalava con la mano e diceva: mi dia un po' quel sacchetto lì, quello che c'ha il disegno del gallo. E quindi la gente riconosceva il prodotto migliore e così si è incominciato a creare il marchio. Lo spot pubblicitario è nato con Carosello. L'ideatore era un signore che si chiamava Carlo Gaspardone di Torino. La legge diceva che non si poteva pronunciare il nome del prodotto più di 4 volte. E questo signore ha detto: ma invece perché non creiamo anche un claim, un qualche cosa che ricordi il nome del prodotto senza però menzionarlo? E allora dopo un po' è venuto dicendo: ho trovato, il nostro claim è Chicchi Ricchi, e da allora noi continuiamo a usare questo claim. Chicchi Ricchi, Chicchi Ricchi, Chicchi Ricchi, Chicchi Ricchi, Chicchi Ricchi, Chicchi Ricchi. Ho detto Chicchi Ricchi e non Chicchi Ricchi, notata la differenza? Sì, i Chicchi Ricchi di riso gallo calibrati, sani e belli, modestamente come me. Riso gallo! Riso gallo è scelto l'origine. Fresco e sempre in salute perché ben protetto. Riso gallo è un gran mangiare. Riso gallo! Quali sono i consigli di un grande imprenditore per i giovani che cominciano oggi a costruirsi un futuro? I giovani devono sapere che non c'è niente di facile. È fondamentale che tutto quello che fanno lo facciano con una grande coscienza, grande responsabilità, grande impegno. La seconda cosa è quello di imparare le lingue. E poi, perché non pensare anche a fare qualche cosa per conto proprio? Ci sono tante possibilità. Ecco, se uno individua bene un problema, di solito ha trovato un mercato. Per ogni grande imprenditore esiste anche un dopo con cui fare i conti, il giorno in cui la quotidianità di tanti anni di lavoro si trasforma perché arriva il momento di farsi da parte. Nell'accordo che abbiamo fatto con i figli, con le mogli, il consulente a un certo momento mi ha detto: sa, signor Preve, lei a una certa età deve andare in pensione e lo deve stabilire adesso, in questo momento. E i figli hanno detto: ma sì, va bene, puoi stare sino a 72. E devo dire che ci penso. Quello che a me piace fare è quello di trasmettere ai giovani l'esperienza che ho avuto con tutti i lati positivi e negativi, e credo che trasmettere questo ai giovani è una cosa che ti dà molta soddisfazione. Ecco. È tutto, grazie a Mario Preve per essere stato con noi. Un saluto da Lara Vecchio.